Io vorrei andare da Pino Corrias, che, come tutti, hanno ritirato fuori giustamente questa opera teatrale, Il contabile e le murene, che Corrias ha scritto, pubblicata quest'anno, e nella quale ci sono delle ragazze in un paese innominato che partecipano a cene eleganti e che a un certo punto decidono di aggredire fisicamente un ragioniere, tale ragioniere Biassoni, perché? Perché non arrivano più i soldi. Allora, Corrias, che cos'è questa fanta racconto superato dalla realtà? Ma guarda, in realtà si trattava di, come dire, di cucinare tutti gli elementi che stavano già sulle pagine di giornali da molti mesi. C'era un bancomat praticamente permanentemente aperto, c'erano delle ragazze che partecipavano a queste cene eleganti e che ritiravano ogni settimana la busta per aver partecipato a queste cene. C'era un ragioniere mitissimo in tutto questo ambiente di ultramiliardari e di ragazze molto esuberanti, un ragioniere mitissimo che si vedeva sfilare appunto all'inizio di ogni settimana la sequenza di queste ragazze che ritiravano le buste. Io mi sono limitato a immaginare cosa sarebbe potuto succedere se queste stesse ragazze non avessero più avuto il mezzo, il modo di mettersi in contatto con il loro bancomat, il presidente con la P maiuscola, perché lo scandalo è scoppiato sui giornali e il presidente è sparito, e allora vanno nell'unico posto per loro possibile, dal ragioniere, il bancomat, e siccome lui non ha ricevuto disposizione di pagare più nessuno, decidono di sequestrarlo e lo sequestrano per un intero giorno. Io ho ambientato la storia direttamente nell'ufficio del ragioniere, del fantomatico ragioniere. La realtà, come sempre, supera la fantasia, quando hai letto di questa realtà, di questo racconto, che hai pensato? Che, insomma... Beh, non ho tanto avuto tempo di pensare, perché ha cominciato a squillare il telefono, sono arrivati messaggi, telefonate, tutti che mi dicevano: hai visto cosa sta succedendo? No, io penso che la storia sia straordinaria, naturalmente, e che sia completamente attendibile, diciamo, fino all'alba del 16 ottobre, cioè sì. è